Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Paolo Bertazzoni, cucine per tutto il mondo, di Alessandra Scaglioni. Il rapporto con il cibo ed il modo di cucinare cambia nei luoghi e nelle epoche. La storia che vi raccontiamo nella puntata di oggi è quella di un'impresa che ha seguito questa evoluzione costruendo cucine dal 1800 ad oggi, da Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, sino agli Stati Uniti. Azienda familiare, occupa una nicchia di mercato di eccellenza. Produce esclusivamente in Italia e si rivolge al mercato internazionale, dove arriva la maggior parte dei suoi prodotti. La storia della Bertazzoni inizia più di 100 anni fa, con l'arrivo in Italia delle prime cucine domestiche a carbone. Paolo Bertazzoni, presidente, rappresenta la quinta generazione della famiglia. Inizia a cavallo tra il 1800 e il 1900, periodo in cui arrivavano le ferrovie nel nord Italia, dove si cominciava a fare industria. L'esempio nostro è un esempio anche di trasformazione industriale, perché probabilmente non ci sono i dati, ma era una grande bottega di fabbri che con precisione ingegneristica fabbricavano bilance per l'industria del formaggio, del parmigiano reggiano. Nel 1882 nasce la ditta Bertazzoni. Il nuovo prodotto piace e si vende. È un prodotto che segna o rappresenta i passaggi della nostra storia e della nostra società e di cambiamenti nello stile di vita, a partire dal passaggio tra l'economia agricola e l'economia industriale. La cosa funzionò perché praticamente è l'evoluzione dal focolare al primo elettro, tra parentesi, domestico integrato. Serviva per cucinare sul piano, per produrre acqua calda, si poteva cucinare al forno e come sottoprodotto della combustione, cioè con le ceneri, si produceva la lessiva per fare il bucato. Quindi un grande progresso, ancora un po' manuale, ma un grande progresso per la famiglia. Mio nonno sposò la figlia di un importante casaro della zona e, avendo quest'idea di produrre con suo padre questo nuovo prodotto in modo industriale, si fecero finanziare dalla famiglia della futura sposa. Quindi con un prestito importante fu costruita questa prima fabbrica grande in quello che adesso è ancora il centro di Guastalla, e questo è un esempio proprio di passaggio, di trasformazione o di anche di passaggio dal sistema primario, dall'economia primaria dell'agricoltura all'economia dell'industria. Si passa attraverso il periodo della Prima Guerra Mondiale, dove le competenze imparate durante il conflitto vengono valorizzate e segnano un momento di passaggio nelle modalità della produzione. Altri importanti cambiamenti poi furono il fatto che, non so, mio nonno durante la Prima Guerra Mondiale non fu mandato al fronte, essendo un bravo ingegnere, e fu mandato alla Fabriguerra, che era le fabbriche della Fiat requisite dal Ministero della Guerra, e lì imparò il sistema di produzione fordista. Dalle cucine economiche a legna degli anni 30 si passa a metà degli anni 50 alla produzione di cucine a gas, che nel 1958 vengono perfezionate con l'aggiunta di un forno. E intanto l'azienda inizia a guardare, praticamente da subito, al mercato globale. Il grande passaggio fu questa trasformazione. Noi abbiamo continuato per anni a fare ancora le cucine a legna, però lo sviluppo, come sempre, viene dai prodotti più nuovi e quelli li abbiamo cominciati a esportare. Quello è un altro importante punto di cambiamento. Mio padre era una persona curiosa, era una persona anche molto aperta e viaggiando scoprì le possibilità che c'erano di esportare e fu tra i pionieri dell'industria italiana nell'esportazione e ha messo le basi per quello che è la nostra fortuna di oggi. Nei primi anni 60 con le esportazioni nei paesi del Mediterraneo e subito dopo in tutta l'Europa. Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, le vendite di cucine Bertazzoni raggiungono le Filippine e Singapore. Oggi arrivano in 5 continenti ed esportano il 93% della produzione. Ci sono vari fattori che contribuiscono a questa percentuale apparentemente sbilanciata. In realtà il nostro prodotto è un prodotto che ha uno standard mondiale, perché l'industria italiana è stata capace di imporre questi modelli che derivano sicuramente anche dalla cultura italiana, dalla nostra cultura del cibo, da questa fama che ha l'Italia come buona cucina. Abbiamo una copertura mondiale che, partendo da ovest verso est, vede una presenza nel continente nordamericano, in Sud America, in Europa, ovviamente in Medio Oriente e nel Far East e in Australia. Quindi i continenti sono tutti coperti. Dopo ovviamente ci sono aree di maggiore o minor successo, paesi di maggiore o minor successo, ma in quasi tutti i paesi siamo riusciti ad avere accordi con i migliori distributori locali. Più di recente, l'azienda arriva negli Stati Uniti, da cui arriva il 25% del fatturato e che ha richiesto alcune attenzioni nella produzione. Beh, ovviamente le cose che riguardano il come si cucina sono 100% italiane e non sono esattamente conformi allo stile americano, ma questo l'abbiamo fatto di proposito perché il nostro prodotto è comprato da persone che sono interessate a cucinare e che cercano anche uno stimolo in questo, quindi sicuramente ci differenzia e questa è stata una mossa che ci ha aiutato molto. Poi le cose che abbiamo dovuto adattare sono ovviamente le norme di sicurezza, che sono leggermente diverse da quelle europee, ma quelle leggermente diverse dal punto di vista industriale è sempre un problema, e le dimensioni sono più grandi, è tutto più grande negli Stati Uniti. In Italia Bertazzoni rappresenta il 5% del mercato e soprattutto in Italia si concentra tutta la produzione realizzata nella sede di Guastalla. È tutta italiana, 100% fatta nello stabilimento di Guastalla. Da lì va in tutto il mondo e la nostra strategia è una strategia di nicchia, perché il settore nostro è un settore di grandissimi volumi, di colossi per noi inavvicinabili. Quello che noi facciamo è giocare nella nicchia per prodotti di altissima qualità, di alto design e di alto valore, che sommata per i vari paesi diventa un numero interessante e ci consente di fare delle economie di scala e anche una produzione con qualità industriale, con volumi e qualità industriale. In un periodo storico come quello attuale, in cui uno dei termini più utilizzati è internazionalizzazione e dove le imprese vanno spesso a costruire all'estero, la possibilità di produrre in modo concorrenziale in Italia c'è solo in alcuni segmenti di mercato. Noi siamo in un segmento di mercato alto, quindi facciamo prodotti che hanno dei contenuti tecnologici e di finitura che secondo noi possono essere fatti solo in Italia. E abbiamo un pacchetto di competenze, proprio un patrimonio di competenze con i nostri collaboratori che sono persone bravissime, i nostri operai che sono capaci di finire i prodotti in maniera splendida. E quindi noi abbiamo pensato di risolvere questo grande problema della competitività facendo prodotti sempre migliori, sempre più rifiniti, sempre più interessanti per il consumatore. C'è una polarizzazione in corso, i prodotti di basso livello vengono fabbricati in paesi a basso costo e i prodotti di alto livello possono essere fabbricati in paesi un po' acciaccati come il nostro. Per studiare il prodotto rivolto ad una fascia alta di mercato serve il design, la tecnologia, l'innovazione. Abbiamo noi definito quello che può essere l'innovazione per un'azienda di medie dimensioni, cioè quindi sicuramente non abbiamo i mezzi per sostenere reparti che possano cercare l'invenzione, che è l'innovazione dirompente, no? Un modo totalmente nuovo di cucinare forse non è così facile da inventare. Quello che noi facciamo è l'innovazione incrementale, è un tipo di innovazione che è alla portata di tutte le aziende purché gli venga data la giusta attenzione. L'innovazione incrementale vuol dire avere la possibilità di combinare fattori ed elementi in modo creativo e migliorare il prodotto. Noi siamo fortemente innamorati del nostro prodotto, per noi è la nostra vita, noi siamo un'azienda produttrice e quindi questo per noi è fare un prodotto sempre migliore, sempre più bello, sempre più vicino all'utilizzatore finale, per noi non è solo una sfida, è anche un grande piacere. Fatturato di 58 milioni nel 2011, Obiettivo 70 milioni di euro per il 2012, 200.000 pezzi prodotti in un anno. La sede dell'azienda è a Guastalla, proprio al limitare della zona più duramente colpita dal terremoto. Ma noi ovviamente l'abbiamo sentito duramente, fortunatamente le strutture aziendali hanno resistito egregiamente. Abbiamo chiuso per 3 giorni per poter ispezionare ogni angolo e ogni crepa anche vecchia dell'intonaco, ma per fortuna la struttura ha resistito. Ovviamente i nostri dipendenti sono stati colpiti, specialmente quelli che abitavano nella zona più vicina al cratere sismico, sono stati colpiti, li abbiamo sostenuti, abbiamo lasciato che rimanessero in congedo, tra virgolette, per periodi lunghi, per poter risistemare le cose e ricominciare una vita normale. E non è indifferente per un'azienda che produce cucine l'essere nata e cresciuta in una regione dove è radicata la cultura del cibo. Sicuramente i tre pilastri, o i tre valori fondanti della nostra azienda sono sicuramente la nostra storia, l'altra cosa fondamentale è la capacità ingegneristica tipica anche proprio dell'Emilia, visto le storie di successo che ci circondano, che sono anche famose nel mondo. E quindi abbiamo degli ingegneri bravissimi. E l'altra cosa importante è proprio il fatto di avere questa cultura del cibo, della buona tavola, che è tipica dell'Emilia. L'Emilia era il granaio dell'Impero Romano e da allora è rimasta guardiamo l'industria alimentare che c'è, insomma. E quindi questa è parte della nostra cultura ed è anche un aspetto di passione, perché cucinare è un'attività estremamente gratificante e i nostri prodotti sono disegnati per gratificare chi li usa. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.